Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, temi a cavallo tra Roma e Bruxelles. Perché? Perché da un lato stiamo anche noi analizzando vari elementi presenti nella legge di stabilità o legge di bilancio o legge finanziaria, come si chiamava una volta, e partiremo in apertura proprio dal tema fiscale. Oggi il ministro Padoan ha negato che si tratti di un condono. Però questo si lega anche ai dubbi, chiamiamoli così, di Bruxelles, che relativamente alla possibilità di sanare anche la parte di contante sono molto scettici sui numeri messi dal governo italiano quanto a gettito. Il problema è sempre l'affidabilità delle entrate previste, diciamo come titolo generale. Però insomma, visto che collegato alla manovra c'è il decreto fiscale che manderà in soffitta la vecchia agenzia per la riscossione, quindi Equitalia verrà assorbita dall'agenzia delle entrate, ma non è tanto questo il punto, ma la rottamazione delle cartelle di Equitalia dovrebbe portare a 3 miliardi e 100 milioni in più secondo il governo, assieme ad altre misure di recupero dell'evasione. La stima era inizialmente di 4 miliardi, adesso sembra più orientarsi a 3 miliardi e 100 dopo guardando le tabelle del documento programmatico di bilancio inviato all'Unione Europea. Cercheremo di capire che cosa succederà, visto che c'è anche la possibilità di estendere l'autodenuncia, la cosiddetta voluntary disclosure, oltre che ai capitali illecitamente detenuti all'estero, anche al denaro contante occultato in Italia. La norma Corona l'hanno chiamata alcuni o gli altri salva Corona, una possibilità che già esisteva ma che nessuno in realtà ha mai sfruttato. L'imposta secca sarebbe del 30-35% e la seconda edizione di questa voluntary disclosure varrebbe altri 2 miliardi, quindi sommando le due voci siamo già a 5 miliardi di manovra coperti dalla parte fiscale. E cerchiamo di capire che cosa succeda nelle intenzioni del governo, che cosa dovrebbe succedere per chi ha ancora cartelle pendenti con Equitalia, soprattutto è la parte del meccanismo moltiplicatore di sanzioni e di interessi, per cui si andrà a pagare l'imposto, la multa dovuta con la maggiorazione fissa intorno al 3%, come aggio per il costo di riscossione, ma non gli interessi e la mora, non altri interessi e la mora. Ma adesso vi arriviamo. Poi parleremo invece del fronte Roma-Bruxelles, che vuol dire lo scetticismo con cui, off the record, cioè in maniera non ufficiale, questa manovra è stata accolta. Il commissario europeo Moscovici, che ha detto la guarderemo con estrema attenzione. Sui conti italiani l'esame sarà esigente, vigileremo sulle spese per sisma e migranti. Fiducioso ministro Padoan, che ha detto l'Unione Europea valuterà i numeri, siamo in regola. Ancora l'altra vicenda che riguarda invece solo l'Italia e soprattutto il settore bancario si riferisce al Monte dei Paschi di Siena. Allora, e qui andiamo anche alla borsa. Monte dei Paschi di Siena, nel giorno del Consiglio di amministrazione che prenderà in esame il piano di Corrado Passera inizialmente bocciato, inizialmente non preso in esame, il titolo sta volando più 12,30% in questo momento a 19 centesimi di euro. Sappiamo benissimo che sta volando rispetto dei minimi storici raggiunti, però 12,12% è comunque un incremento significativo e che sul Monte dei Paschi non vedevamo da non so quanto. Parleremo anche del piano Passera, che prevede in particolare il coinvolgimento di nuovi investitori, il fondo Atlas è uno di quelli citati fino adesso, e risorse fresche fino a 2 miliardi e mezzo, riducendo quindi l'entità dell'aumento di capitale, dimezzandolo di fatto, perché è stimato in circa 5 miliardi, verrebbe è dimezzato, prevista la cartolarizzazione dei crediti deteriorati e quant'altro. Però insomma ce ne occuperemo sia durante i mercati che con un approfondimento apposito. Visto che eravamo sulla borsa, segnalo che Milano guadagna l'1,75%, Parigi l'1,25%, Francoforte l'1,1, Londra più 0,80, Dow Jones più 0,40, euro su dollaro 1,09, oltre al Monte dei Paschi di nuovo forte la Popolare Emilia Romagna più 4,50%, qui è ancora l'effetto, diciamo, via libera alla fusione tra Popolare di Milano e Banco Popolare, Unipol SAI più 3,40, Unipol più 3,40, Telecom più 3,14, Snam più 3%, Banco Popolare più 2,70. Il fronte opposto, Ferragamo meno 2, Poste Italiane meno 1, Fiat Chrysler meno 0,70%. Il numero, come sempre, per i vostri sms e whatsapp è 349-238-6666 e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, partiamo con alcuni effetti, li stiamo raccontando per come arrivano della Brexit. Da un lato Ryanair ha tagliato le stime sulle crescite degli utili, pesa il calo della sterlina, quindi l'impatto anche della Brexit. Le taglia da un precedente 12% a un più 7%, quindi un utile netto che dovrebbe attestarsi intorno a 1,3 miliardi contro il 1,425 miliardi. Stimati in precedenza. Altro problema ce l'ha la Royal Bank of Scotland, qui non c'entra la Brexit, però va ricordato, perché il colosso bancario che è stato salvato dallo Stato britannico, quando vi ricorderete Royal Bank of Scotland assieme a Northern Rock era una delle due banche peggio messe in Gran Bretagna, lo Stato si è comprato i 2/3 del capitale, il 73% del capitale, ha subito una nuova svalutazione con un danno per le tasche dei contribuenti calcolato in circa 6 miliardi di sterline, 6 miliardi e 600 milioni di euro. Perché dei contribuenti? Perché appunto una svalutazione di una banca nazionalizzata ricade sulla comunità, sulla collettività, e diventa quindi sempre più difficile per il tesoro britannico privatizzare questo 73% in mano appunto al tesoro stesso. Pensate che nel 2008, quando il governo britannico tirò fuori 45 miliardi di sterline per salvare Royal Bank of Scotland, questo lo dico perché spesso ricordiamo che si parla tanto di banche italiane, ma chi ha messo soldi, tanti e soldi veri, per salvare le banche sono stati tedeschi e inglesi in primo luogo, in quegli anni. Comunque, dicevo, a suo tempo costò 45 miliardi di sterline salvare Royal Bank of Scotland e una singola azione venne pagata 503 pence. Ora il titolo è crollato a 172 pence e il valore complessivo è a 14,8 miliardi. Quindi il tesoro britannico ha ottimi motivi per non volere in questo momento andare a privatizzare, perché andrebbe a, si porterebbe a casa una perdita anche consistente. E poi la sterlina debolissima nei confronti del dollaro ai minimi da 30 anni e anche dell'euro sta già generando quella che abbiamo raccontato più volte, ossia l'inflazione importata, l'inflazione cattiva, quella che non deriva da un aumento dell'attività economica, dei consumi, del potere d'acquisto e quindi un aumento dei prezzi perché tutti comprano di più, ma che deriva semplicemente dal fatto che aumentano i prezzi delle materie prime o dei beni che tu importi, perché si svaluta la tua valuta. Ecco, l'effetto c'è già, tant'è che l'inflazione a settembre è salita all'1%, che è ancora bassa come stima, ma è il dato più alto da 2 anni a questa parte in Gran Bretagna. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi sempre anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. L'inflazione è tornata a crescere e questa è la domanda che si fanno in questo momento economisti, analisti ed esperti di mercati finanziari dopo il balzo dei prezzi al consumo registrato in Inghilterra, un balzo superiore al previsto che pone sostanzialmente l'andamento dei prezzi vicino a quello che era stato programmato dalla Banca Centrale Inglese, che ormai da anni sta cercando di stimolare la crescita dell'inflazione a forza di iniezioni di liquidità. Un po' quello che è successo in tutto il resto del mondo, dagli Stati Uniti e soprattutto in Europa, dove Draghi fra pochi giorni, anzi giovedì, si riunirà con il Comitato Centrale della Banca Centrale Europea per decidere se estendere, se non estendere o che cosa dire ai mercati finanziari sulla prosecuzione delle manovre di stimolo all'inflazione, soprattutto per i prezzi, ma soprattutto per cercare di far riprendere l'economia. In realtà, al di là dell'inflazione che si riprenda o meno, quello che vogliono sapere non solo i mercati, ma soprattutto le famiglie e le imprese, è che cosa si intende fare quando saranno finite le manovre di stimolo, ovvero i governi torneranno ad aprire i portafogli per finanziare non soltanto la ripresa dell'economia, ma anche stabilizzare quei redditi che ormai sono stati compressi drammaticamente dalla crisi. Queste sono le domande importanti e queste purtroppo non sono le risposte che arriveranno a breve. Bisognerà aspettare ancora la fine dell'anno per verificare i dati e soprattutto verificare la volontà e l'impegno dei governi, non soltanto in Europa, ad aiutare una ripresa dell'economia mondiale che ormai ferma da anni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo alcuni che mi chiedono di quello che sta capitando, le trattative tra Unione Europea e Canada bloccate dai valloni. Sì, guardate, questo è un tema di chi ha studiato, direbbe, di governance europea. Cioè, come fa a funzionare l'Unione Europea se io, con il massimo rispetto per la comunità vallona del Belgio, ma non è che una comunità che vale quanto una piccola regione italiana può bloccare un accordo su cui tutti gli altri paesi dell'Unione Europea sono d'accordo. Ed è l'accordo, diciamo, per aumentare il libero scambio tra Unione Europea e Canada. Tra l'altro il Canada è un mercato importantissimo per il nostro export agroalimentare, sia vitivinicolo che alimentare vero e proprio. C'è, come tutti sanno, una comunità importante francese, francofona, scusatemi, in Canada, e quindi anche abitudini alimentari che lo rendono un mercato interessantissimo per le nostre esportazioni. Tutto è bloccato perché la comunità, la Vallonia, diciamo, la comunità dei Valloni, non vuole ratificare l'accordo. Tant'è che il vice premier belga dice: è un momento molto difficile per il Belgio, non si è mai trovato nel ruolo di un unico paese che blocca un accordo europeo. Lavorerò oggi e domani con la regione Vallone per raggiungere un accordo. Tant'è che anche il nostro ministro dello sviluppo economico Calenda ha detto che, insomma, se non si arriva a un accordo con il Canada si rischia di uccidere tutta la politica commerciale dell'Unione Europea. E i leader devono fare il punto sulle procedure. Ora, io ripeto, massimo rispetto, ma non è che possiamo bloccare tutto per una mezza regione italiana, col massimo rispetto per la comunità dei Valloni, che se no. Allora, c'è qualcuno che mi continua a scrivere sul tema di ieri delle pensioni: vi manca l'onestà intellettuale, con 41 anni di contributo in pensione ci vai solo se appartieni a determinate categorie. L'abbiamo detto, ma non capisco. Adesso, se non si è capito, mi dispiace. L'abbiamo detto in tutti i modi, specificando cosa voleva dire l'APE volontario rispetto all'APE sociale, quali categorie rientreranno nell'APE, nell'anticipo pensionistico sociale, quale sarà l'aggravio per l'APE sociale sopra una certa fascia di reddito, di pensione, mi scusi, paghi la quota, la differenza, insomma. Se l'abbiamo detto male, accetto la critica, ma perché deve scrivere siete proprio asserviti a questo governo? Ma magari ci siamo espressi male, ma che cosa c'entra il governo? Non è che con l'APE è un dato di fatto la modifica che ha fatto, mica abbiamo detto che bella che è l'APE o che brutta che è l'APE. Ancora due notizie, poi passiamo al primo tema, Equitalia. E cosa succederà Equitalia, ma soprattutto anche le stime del governo sul gettito. Allora, non sono buone notizie quelle che arrivano dal mercato del lavoro, lo dico subito così evitiamo le polemiche, nel senso che, andando a guardare la qualità dei nuovi lavori, le assunzioni dei datori di lavoro privati nel periodo gennaio-agosto 2016 sono risultate 3.780.000, con una riduzione di 351.000 unità rispetto allo stesso periodo del 2015. Il governo dice era stato un periodo molto positivo, quindi lo dice anche l'INPS, considerate però il dato che è relativo a un periodo di forte incremento. No, il problema non è tanto sul dato assoluto, è secondo me sulla qualità dei contratti, perché rallentano principalmente i contratti a tempo indeterminato, sono 400.000 in meno, che secondo l'osservatorio dell'INPS anche questo messo in relazione al forte incremento dell'assunzione a tempo indeterminato registrato nel 2015, quando c'era la decontribuzione fino a 8.000 euro per 3 anni, 8.000 euro all'anno per 3 anni. E poi c'è comunque ancora il fenomeno dei voucher, che continua nonostante le dichiarazioni del ministro Poletti, che avrebbero guardato con maggiore attenzione chi e come vengono utilizzati questi voucher, continuano ad aumentare. Periodo gennaio-agosto sono stati venduti 96.600.000 voucher dal valore nominale 10 euro più 36%. Ora, siccome nei primi 8 mesi del 2015 la crescita dell'utilizzo dei voucher era stata del 71%, è ancora molto alta. Il problema è capire, io mi auguro che il Ministero su questo ci dia anche delle risposte a breve, la qualità e le caratteristiche di questi voucher, perché il sospetto, diciamocela tutta, che nascondono altre forme di lavoro, che vadano a mascherare altre forme di rapporti lavorativi che nulla hanno a che fare con i voucher. Ultima notizia riguarda invece i dati dell'ABI, dell'Associazione delle Banche Italiane. Le sofferenze nette, quindi delle banche, crediti non più esigibili, che non torneranno più indietro, sono ferme a 84,7 miliardi. I prestiti bancari hanno fatto crescita zero anche a settembre, nel senso che i prestiti delle famiglie e imprese meno 0,01. Comunque la crescono, come avviene ormai da anni, i mutui più 2% anche ad agosto, i mutui per le famiglie, per le case soprattutto, mentre restano ancora, anche se leggermente, non più, ma meno 0,2% i prestiti alle imprese, che non, appunto, sono influenzati dall'andamento degli investimenti, del ciclo economico. I tassi vengono segnalati per i mutui bancari a un nuovo minimo storico, al 2,05%, in calo anche quelli complessivi per i prestiti. E poi invece la Banca d'Italia oggi fa notare come il risparmio delle famiglie italiane stia fuggendo sempre di più dalle obbligazioni bancarie, soprattutto dopo il varo del bail-in, quindi del fatto che in caso di fallimento bancario pagheranno anche gli obbligazionisti di qualunque livello, certo non subito anche i senior, però pagano, sono coinvolti anche quelli. Allora, la Banca d'Italia pubblica una tabella in cui onestamente è innegabile il dato, perché il peso delle obbligazioni bancarie sul totale della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è tornato sotto il 5%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo sul primo tema, e quindi che cosa succederà a Equitalia, che cosa succederà a chi ha cartelle con Equitalia, e le stime anche del gettito previsto. Già vi sono alcuni che mi chiedono: ma com'è possibile, se eliminiamo alcuni interessi, la mora, che aumenti il gettito delle cartelle esattoriali? Allora, riepilogo delle puntate precedenti. Il governo ha approvato, collegato alla manovra 2017, un decreto fiscale che manda in soffitta la vecchia agenzia, l'amatissima Equitalia, no? Verrà assorbita dall'Agenzia delle Entrate. Le coperture previste grazie all'entrata della rottamazione delle cartelle Equitalia ammontano, insieme a altre misure legate al recupero dell'evasione, a 3 miliardi e 100 milioni nel 2017. Questo vuol dire che, insomma, e Piercarlo Padoan, il ministro dell'economia, aveva detto inizialmente 4 miliardi. Quindi questo vuol dire che il governo si aspetta che entrino più soldi, pari a 3 miliardi e 100 milioni in più, dovute appunto alla rottamazione delle cartelle di Equitalia. E questo è il primo punto interrogativo. Uno potrebbe dire: ok, magari le paghi più volentieri, no, ma insomma le paghi perché riduco o faccio eliminare alcuni interessi di mora, alcuni costi in più, Però se io non ho i soldi e non riuscivo a pagarle prima, non riesco a pagare anche senza gli interessi di mora. Non capisco tutta questa certezza nel stabilire che arriveranno 3 miliardi e 100 milioni di euro in più. Serviranno comunque almeno 6 mesi perché ci sarà una fase transitoria nella riforma. Vanno risolti alcuni problemi, a partire da quello del personale, visto che i dipendenti di Equitalia non sono in maniera stretta dipendenti pubblici, e anche per loro quindi si porrebbe il tema dell'ingresso per concorso, che ha già riguardato i famosi dirigenti, che dirigenti non erano, ne abbiamo parlato a lungo, incaricati dall'Agenzia delle Entrate. Spunta anche la possibilità di estendere l'autodenuncia, la cosiddetta voluntary disclosure, oltre che ai capitali illecitamente detenuti all'estero, anche al denaro occultante, quello al denaro contante, non occultante, ma al denaro contante occultato, così risponde un ascoltatore. Non è illegale tenere denaro contante in casa, il problema se tu ce l'hai modello Corona e non si capisce da dove sia arrivato questo denaro. Si consente quindi di sanare il contante con un'imposta secca del 30-35% e dovrebbe fruttare altri 2 miliardi. Su questo magari ci arrivo di più a capire, ma giro la domanda a Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Buonasera Giovanni. Buonasera a voi. No, la qualità dell'audio dobbiamo sistemare un attimo perché risulta nel cavò di Equitalia. Giovanni, restiamo sul primo tema, e cioè che cosa prevede il decreto, che non pagheranno quelli che hanno cartelle, sono 51 miliardi di vecchie cartelle non ancora pagate, 51 miliardi di euro equivalenti di vecchie cartelle non ancora pagate, anche se il debito fiscale e previdenziale nei tre quarti dei casi è inferiore ai 5.000 euro, ma lievita moltissimo attraverso il meccanismo delle sanzioni, la mora e gli interessi. Allora, che cosa non pagheranno più quelli che hanno una cartella con Equitalia, e come mai il governo si attende un gettito superiore e significativamente superiore? Sì, decisamente. Non pagheranno le sanzioni, gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, sostanzialmente è l'interesse che matura perché il contribuente non paga quando gli viene contestata una maggiore imposta, c'è un'ipotesi di evasione, ma appunto c'è un interesse che cresce man mano che passa il tempo, da quando avrebbe dovuto pagare a quando poi effettivamente paga. E poi appunto c'è un'ulteriore voce che è legata all'interesse di mora. Quindi queste sono sostanzialmente le tre voci che arriverebbero ad essere scontate dalle cartelle per chi deciderà di aderire alla rottamazione che appunto sta per essere varata con il decreto, con il decreto fiscale che è stato approvato in Consiglio dei Ministri sabato scorso. Ecco, quindi Giovanni, no, perché è importante questo. Quindi che cosa continueranno a pagare quelli che hanno una cartella aperta con Equitalia? Pagheranno ovviamente quello che gli viene contestato, visto che è già andato in fase di riscossione, pagheranno il 3% come aggio per il costo di riscossione, e che interessi pagheranno? Pagheranno l'interesse legale, che però è una voce molto più bassa, che viene computata sostanzialmente sui giorni che sono trascorsi, diciamo, dal momento in cui è stato messo atto d'accertamento, atto all'Agenzia delle Entrate ad esempio, a quello in cui viene messa la cartella della riscossione, cioè quando materialmente poi Equitalia ha preso in carico la somma che deve poi cercare di portare a casa. Ecco, domanda, adesso mi scrive un ascoltatore che mi dà del fazioso contro il governo in questo caso, vabbè dai, andiamo a elidere i pro e i contro governo. È ovvio che diminuendo il contenzioso aumenta il gettito, è così semplice perché non lo vuole capire, perché sarò gnucco, però io non è che non ho capito perché il governo si aspetti un po' di gettito in più, ma indicare in una legge di stabilità, una legge di bilancio, una manovra finanziaria, una cifra così precisa che va a copertura di altre voci è rischioso, ed è su questo che secondo me l'Europa, poi ne parleremo nella seconda ora, inizia a storcere la bocca. 3 miliardi e 100, 4 miliardi, tanta roba. Sono tanti, sono decisamente tanti, però possiamo provare a fare un parallelo con quello che è avvenuto ad esempio in 6 mesi nel 2014, quando in quel caso un'operazione di moratoria, di sanatoria le cartelle di Equitalia, molto, diciamo, meno conveniente per il contribuente debitore, perché venivano scontati solo gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo e le more, portò comunque in 6 mesi un importo al di poco superiore ai 700 milioni di euro. Quindi insomma, ipotizzando che come dire, la voce principale che quindi che appesantisce il carico delle cartelle esattoriali, cioè le sanzioni in questo caso verrebbero scontate, c'è una leva in termini di appeal maggiore per questa sanatoria. Sì, ovviamente, però scusami Giovanni, adesso un po' lo chiederò anche di non peserlo più avanti, però è ovvio che da un lato io rinuncio agli interessi di More e altri interessi, no? Quindi perché se tutti pagassero avrei quelli. Dall'altro dico, però con questa rinuncia assomiglia un po' alla curva di Laffer sulla tassazione, cioè abbasso la tassazione e però più gente che paga le tasse. Beh, sappiamo che su questo la curva di Laffer funziona quando tutti pagano veramente le tasse e allora c'è un vantaggio, ma quando tu hai un'evasione molto alta hai voglia di abbassare dei 2-3 punti, la gente continua a evadere. Allora io volevo capire come si fa a essere così certi che il saldo tra i soldi che non incasserò più perché rinuncio all'amore e altri interessi e la maggiore, diciamo, voglia o possibilità di pagare queste cartelle sia così positivo da portare a 3 miliardi, a più di 3 miliardi? Allora, molto semplicemente, qui stiamo parlando di crediti, che diciamo che così, che gli enti impositori, cioè l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali, sono inferiori, perché queste sono le tre grandi macchine di macro categoria, hanno sostanzialmente in pancia. Quindi sono contestazioni che non vengono pagate da svariati anni. E che come dire, non sempre hanno avuto un andamento lineare nel momento in cui Equitalia ha preso in carico la riscossione, cioè quasi ogni anno viene ripetuta un'operazione che si chiama riammissione alla dilazione. Se noi pensiamo che il 50% degli incassi di Equitalia che si attesteranno quest'anno intorno agli 8,2-8,5 miliardi viene dalle rateazioni e che comunque sulle rateazioni ogni anno viene fatta un'operazione di riammissione alle rate perché c'è gente che decade perché non paga, allora questo metodo in qualche modo, questa rottamazione che viene fatta è un modo, per dirla molto più banalmente, ne prendo di meno ma maledetti è subito, in qualche modo è un modo per accertarmi che quei crediti che non so quando riscuoterò, perché non so quando li riscuoterò, adesso cerco di portarli a casa e di contabilizzarli attraverso questa sanatoria. Allora, dopo il meteo, però io ho due domande da farti ancora. La prima, che me la segnalano molti ascoltatori, devo dire che ha più di un senso. Non è che adesso rischiamo il blocco della riscossione perché io che so, diciamo, ho delle cartelle aperte, so che Equitalia verrà assorbita, che mi leveranno la mora e gli interessi, col cavolo che pago adesso, anche chi era così stava per pagare o stava pagando. E la seconda domanda che mi chiedono molti ascoltatori, che mi fanno molti ascoltatori, è che cosa succede a chi ha già delle rateazioni in corso? La risposta dopo il metro, la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, molti messaggi, però vorrei che Giovanni Parente rispondesse alle due domande che sono le più frequenti tra quelle che ci pongono gli ascoltatori. E quindi, da un lato, che cosa succede a chi ha la rateizzazione in corso e dall'altro, appunto, la stima fatta su queste cartelle sembra, molti ce lo stanno scrivendo, sembra obiettivamente molto alta, anche perché alcuni fanno notare che ci potrebbe essere un blocco adesso di chi era intenzionato anche a versare i soldi a Equitalia sapendo che fra qualche tempo gli levano mora e parecchi interessi. Davide, Giovanni. Assolutamente sì. Allora, primo caso, chi ha già in corso un piano di rateazione in qualche modo potrà accedere alla rottamazione scontando quello che ha già versato, quindi potrà rottamare la parte residua, parte non ancora pagata, diciamo. Esattamente. Okay. Esatto. Quindi fa la rottamazione per quello che non ha ancora pagato. Okay. Secondo, il problema è estremamente serio, tanto è vero che si sta lavorando ancora al testo delle norme. Noi abbiamo detto che il decreto è stato approvato salvo intese sabato scorso in Consiglio dei Ministri, ma insomma, vero, nero su bianco, il testo delle norme non c'è ancora, tanto è vero che il decreto dovrà probabilmente ripassare in Consiglio dei Ministri. Con la si sta studiando una soluzione per consentire sostanzialmente l'accesso a questa rottamazione a chi è in regola con gli spostamenti anche in quest'ultimo scorcio di 2016, perché altrimenti di fatto ci sarebbe un effetto disincentivo. Ah beh, certo. Cioè tu dici questa cosa si applicherà per chi sarà stato in regola, perché se tu inizi adesso a non versare più, magari stai versando, esci da questa categoria, ho capito bene? Esattamente, anche nel fatto, anche per quanto riguarda le radiazioni, ad esempio, le radiazioni prevedono la decadenza adesso, cioè tu perdi il beneficio di poter pagare le rate se non versi 5 rate anche non consecutive. Allora si potrebbe tranquillamente dire chi non ha versato, ad esempio, già una rata, adesso ne ha altre 4, non ha visto 2 rate, ne ha altre 3 in scadenza, ottobre, novembre, dicembre, dice, no, non verso, e quindi certo. Ti faccio tranquillamente la rottamazione l'anno prossimo. No. Si sta studiando un meccanismo per fare in modo che poi poter beneficiare di questo meccanismo siano in qualche modo quelli che hanno già dimostrato una propensione a voler pagare e in questo modo oppure non abbiano pagato perché possono dimostrare delle difficoltà economiche. Quindi questo sarà poi una soluzione che potrà essere trovata e nella norma generale che è inserita nel decreto e poi nei decreti attuativi che comunque dovranno disciplinare le modalità di accesso a questa rottamazione. Allora, che il tema poi sia ad affrontarsi anche in un'ottica di Bruxelles, lo dicevamo prima, è che Bruxelles storca la bocca su queste misure, ma adesso è arrivata anche un'agenzia che conferma quanto stavamo dicendo. Perché? Cos'è che non piace a Bruxelles? Oltre alla stima, che è insomma, tutto da verificare sul gettito atteso, non piace che si tratti di misure una tantum. Appena uscita un'agenzia, insomma, fonti della Commissione Europea fanno notare che tutti gli interventi una tantum, tra cui questo su Equitalia e la possibilità, sono l'elemento che probabilmente sarà di maggior scontro o contrasto tra Roma e Bruxelles. Misure non strutturali, dicono fonti di Bruxelles, possono anche essere apprezzate, ma non sono particolarmente amate. Perché? È chiaro, perché il prossimo anno te ritrovi a capo 12, cioè se è una tantum ti vale solo per quello che sono le entrate nel 2017, per fare la finanziaria 2018 devi inventare qualcos'altro, mentre la spending review e altre misure strutturali sulla spesa della pubblica amministrazione o sull'aumento delle entrate piacciono di più perché, appunto, come dice il termine, sono strutturali, valgono anche per i prossimi anni. Grazie Giovanni Parente. Adesso vado sul traffico, mentre prima di andare sul traffico però vedo un'altra agenzia. Corrado Passera questa sera sarà alla Consob a Roma per illustrare il piano di salvataggio del Monte dei Paschi che l'ex ministro ha inviato al Consiglio di Amministrazione della Banca Senese lo scorso 13 ottobre, che all'inizio fu respinto. Fu respinta l'ipotesi quando c'era ancora Viola e Profumo, se non ricordo male. Questo invece è stato valutato, tant'è che l'agenzia stessa riporta che il piano di Passera è attualmente al vaglio del Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi riunito a Milano. Sì, chiamiamolo il piano di Passera che viene meglio. Usiamo anche l'articolo, andiamo sul traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, io apprezzo che in queste giornate difficili c'è chi si diverte con i nomi dell'ex ministro delegato del Monte dei Paschi, Viola, dell'ex presidente Profumo, del piano di Passera, e mette assieme i tre nomi combinandoli come meglio gli crede. Però io vorrei andare avanti sul Monte dei Paschi. Allora, Marco Ferrando, da questo punto di vista, intanto buonasera in primo luogo. Buonasera. Poi arriveremo anche alla giornata di borsa. Il titolo Monte dei Paschi però è in assoluto il migliore oggi in borsa, più di 12,82%. Poi segue la Papa Emilia Romagna più 5,12%. Che cosa prevede il piano di Corrado Passera? Quello che inizialmente si disse arrivò troppo tardi, ma non si vuole neanche guardarlo inizialmente. Ma anzitutto sembra prevedere un po' più di copertura finanziaria rispetto all'altro piano, nel senso che già a luglio Passera, l'ex CEO di Intesa, aveva detto di avere con sé dei fondi. Questa volta sembra che sia in grado di esibire una carta, cioè una lettera non vincolante, però questo impegno a sottoscrivere 2 miliardi e mezzo circa di aumento da parte di alcuni fondi, di cui, tra i quali si parla di Atlas, di Bob Diamond, ci sarebbe, pur soggetto a una due diligence, quindi vuol dire che prima di aprire i portafogli questi fondi vorrebbero vedere un po' meglio quali sono i numeri della banca, però insomma un impegno perlomeno inizialmente formalizzato ci sarebbe, e questa è sicuramente la novità che il mercato registra positivamente, visto che in questo clima di mercato l'altro piano, quello che vede JP Morgan e Mediobanca al lavoro, oggettivamente sta trovando delle difficoltà, perché in questo momento in tutto il mondo non si fa la coda per investire nelle banche italiane, in particolare il Monte. Ecco, quindi, se ho ben capito, il rispolverare o riprendere in considerazione questo piano è dovuto al fatto che se ti guardi attorno e cerchi di trovare 5 miliardi, siamo ancora a quella cifra, 5 miliardi di nuovo aumento del capitale per un Monte dei Paschi, quanti ne capitalizza in borsa a questo punto? Insomma, oggi è cresciuto del 12,8%. Non arriviamo a 700 milioni. Non arriviamo a 700 milioni e insomma chiedere onestamente 8 volte il tuo capitale, insomma la vedi dura con le prospettive del Monte dei Paschi. Mentre se si arrivasse, se dovesse passare la linea del piano di Corrado Passera, la richiesta sarebbe dimezzata a 2 miliardi e mezzo? Sì, perché da quello che è trapelato, Passera a luglio aveva abbastanza sbandierato la sua proposta, questa volta invece c'è un po' più di riservatezza, quindi emergono soltanto emerge soltanto qualche pezzo, però da quello che emerge 3 miliardi e mezzo di risorse fresche, 2 e mezzo circa sarebbero coperte da questi fondi, da questi investitori istituzionali, e 1 miliardo sarebbe dato come aumento in opzione ai soci attuali, che verosimilmente non aderirebbero tutti. In quel caso si andrebbe sul mercato con quello che avanza. In più sembra emergere che non ci sarebbe sul tavolo il tema dei bond. Sappiamo che invece il piano A prevederebbe una conversione volontaria, ma a condizioni tali per cui volontaria non sarebbe tanto, di alcune obbligazioni subordinate. In questo caso invece sembra di no. C'è però un tema di totale, nel senso che il piano A, timbrato dalla BCE, e non è un dettaglio, prevede 5 miliardi di risorse fresche in un modo o nell'altro, il piano B soltanto 3,5, perché poi l'idea sarebbe quella di destinare gli utili, e qui c'è un punto interrogativo perché oggi per le banche fare utili è molto difficile, destinerebbe i prossimi anni di utile 2017-18 a copertura di quello che manca. Questo fa sì che un passaggio in BCE, che appunto vigila su questa operazione, potrebbe non essere facile per il piano, ed è il motivo per cui, da quello che sembra, il CDA del Monte sta studiando se magari i due piani possono convergere. Quindi lo schema, che non è così differente, sarebbe quello del piano A e magari i soldi, anche quelli di Passera, a cui potrebbe andare ad esempio la presidenza. Sì, infatti si dice che potrebbe prendere anche il posto di Tononi, appunto vista la garanzia, mettiamola così, che dovrebbe svolgere poi sulla scusatemi, realizzazione di questo piano. E appunto stasera sarà Corrado Passera in Consob, lo ricordo, Corrado Passera per molti anni numero uno di Intesa San Paolo e poi anche ministro allo sviluppo economico. Intanto grazie a Marco Ferrando. Non mi sembra che sia uscito altro però dal CDA del Monte dei Paschi. No, risulta ancora in corso, quindi no. E quindi sarà ancora in corso. Non è che ci diano cattive informazioni su questo. Invece restiamo in tema di titoli bancari, ma in questo caso titoli bancari in borsa. Sì, resta la borsa come tema perché e restano le banche in borsa, perché c'è la Popolare Emilia Romagna che guadagna il 5,12%, Unipol più 3,60%, Unipol Sai più 3,5%, e poi Telecom Italia più 3,40%. Qui ci sono notizie, ne parliamo però dopo il GR24. Prima che me lo diciate, vi do anche i migliori e i peggiori. Quanto ho? 20 secondi? E poi ripartiamo. Tra i peggiori ci sono Risanamento meno 10, Italia Independent meno 7,20 come Energy Lab, e poi il Sole 24 Ore meno 6,90%, e poi Visibilia Editore meno 6%. L'ho detto, quindi chi temeva che non dicessi il titolo Sole 24 Ore, lo diamo sempre quando è tra i migliori e i peggiori, diciamo più spesso la seconda possibilità che la prima in questo periodo. GR24. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa. Noto che è tornato Deadmau5. Bene, allora andiamo sulla borsa. E al di là di Monte dei Paschi, di cui abbiamo appena parlato, Popolare Emilia Romagna più 5,12%, Unipol più 3,60%, Unipol Sai più 3,5%, Telecom Italia più 3,40%, Snam più 3,20%, come Leonardo Finmeccanica. Il 3% lo guadagna Terna e il 2,80% CNH Industrial. Negativo invece Salvatore Ferragamo del 2%, Poste Italiane dell'1,40%, Fiat Chrysler dello 0,60%, Ciao Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Monte dei Paschi abbiamo detto, Popolare Emilia Romagna è ancora l'effetto, diciamo, Banco Popolare, Popolare di Milano, se è così lo archiviamo, e invece andrei su Unipol e Telecom Italia. Beh, direi che anche Unipol e Unipol Sai sono comunque legate all'effetto Popolare, controllano Unipol Banca, che a sua volta potrebbe essere coinvolto un po' nel risico, nel consolidamento del settore bancario. Per quanto riguarda Telecom invece ci sono le dichiarazioni di Cattaneo, del numero uno Flavio Cattaneo, rilasciate al quotidiano finanziario brasiliano Valore Economico. Qui le informazioni, diciamo, sensibili per il mercato sono due: uno, esclusa l'acquisizione della brasiliana Oi, quindi prospettiva, insomma, di minori sborsi per il gruppo; secondo punto, Cattaneo ha sottolineato una crescita a doppia cifra dei clienti fissi a settembre, quindi due informazioni che hanno spinto il titolo. Ancora sui titoli, devo dire che Snam oggi guadagna il 3,26%, qui c'è un'obbligazione da mezzo miliardo, no? Ma c'è soprattutto la quotazione di Italgas, è iniziata anche la campagna di informazione pubblicitaria su questo. Sì, diciamo che sarà la più grossa IPO del 2016, dovrebbe, secondo quanto riferito oggi dal numero uno del gruppo Alverà al Sole, dovrebbe sbarcare in borsa il 7 novembre, c'è grande attesa da parte del mercato, sicuramente poi un deconsolidamento di Italgas da parte di Snam, che potrebbe, secondo un po' il mercato e gli analisti, giovare a entrambe le società. Ancora per quello che riguarda invece i titoli peggiori, mentre bene ha guadagnato, appunto, come ricordavamo, anche Terna il 3%, CNH il 2,80%, Intesa il 2,70%, come Unicredit il 2,60%, il rialzo di Banca Mediolanum e anche del Banco Popolare il 2,5%, quello di Popolare di Milano il 2,30% lo guadagna Enel, ma anche UbiBank e Luxottica e Atlantia e Mediaset. di negativo c'è soprattutto Salvatore Ferragamo, meno 2%. Sì, per Ferragamo c'è forte e aggiungiamo, scusami, c'è anche Poste, meno 1,40. Certo, su Ferragamo c'è forte attesa da parte del mercato, sia per la trimestrale che ci sarà il 14 novembre, sia per la nuova strategia che sarà un po' illustrata dal nuovo amministratore delegato della compagnia, Eraldo Poletta, insomma un nuovo timoniere per la società. Il mercato in questo momento è un pochino diffidente, appunto attende la conference del nuovo AD. Per quanto riguarda Poste invece il tema è sempre quello della gara per rilevare Pioneer, la controllata di Unicredit, che Unicredit deve dismettere, insomma, per recuperare un po' di capitale. Qui Poste in gara con Anima e CDP, l'esborso chiaramente potrebbe essere importante ed è una prospettiva che in questo momento il mercato non apprezza molto. Non ho dato gli indici prima, li do adesso, avete ragione, più 2% Milano, più 1,30 Parigi, più 1,20 Francoforte, più 0,70 Londra, più 0,55 in questo momento il Dow Jones. Migliori e peggiori? Peggiori li abbiamo già dati prima, i migliori CHL più 20%, Gruppo Waste Italia più 19%, poi appunto il Monte dei Paschi più 12,80%, TAS più 8,5% e Poligrafica San Faustino più 7,91%. No, Deadmau5 non è un titolo quotato, è un DJ, ho fatto la battuta perché lo abbiamo usato molte volte. Sono ricordo male 1,5-2 anni fa assieme a altri grandi DJ, adesso è tornato con un brano che la nostra regia ha scelto sapientemente. Andiamo invece sulla manovra fiscale, stanno uscendo altre agenzie da Bruxelles, è un caso difficile quello dell'Italia, è un caso complicato e difficile, sempre fonti della Commissione Europea, ma c'è la volontà di mantenere aperto il dialogo e trovare un accordo, però si riconosce che il caso italiano della legge di stabilità presentata è un caso complicato e difficile. Allora, della parte fiscale, o meglio relativa a Equitalia, alle cartelle, quello che abbiamo già detto ampiamente nella prima ora del programma, ricordando che la stima, insomma, è una stima alta, 3 miliardi che dovrebbero entrare come, diciamo, differenza tra quello a cui rinuncia lo Stato sugli interessi, sulla mora, e la maggior possibilità per i contribuenti che hanno cartelle Equitalia di pagare. La manovra complessivamente vale 27 miliardi di euro, al di là di Equitalia e la rottamazione dei ruoli, quindi pagare le imposte dovute e le sanzioni ma non gli interessi e la mora. La dotazione per la previdenza sale da 6 a 7 miliardi, 15 miliardi di euro in 8 anni per la spinta agli investimenti, conferma del taglio IRES dal 27,5% al 24%. Nel dettaglio, spending review vale 3 miliardi e mezzo di entrate, deficit già previsto 6 miliardi e 2, cioè possiamo spendere 6 miliardi e 2, il deficit aggiuntivo o ulteriori coperture 7 miliardi e 2, rottamazione dei ruoli. Noi ce l'abbiamo a 4 miliardi e mezzo, poi adesso la stima è 3 miliardi e 100, boh. Voluntary disclosure bis, che non c'entra con la rottamazione dei ruoli, ma la possibilità di far emergere i capitali detenuti all'estero illecitamente e anche i contanti detenuti in Italia illecitamente, vale 2 miliardi. E poi 3 miliardi e 8 che dovrebbero arrivare da dismissioni, vendita delle frequenze delle telecomunicazioni e giochi. E le uscite sono appunto sterilizzare. L'aumento dell'IVA vale 15 miliardi, il fondo sanità vale 2 miliardi perché sale a 113 miliardi in 3 anni però. Investimenti pubblici 2 miliardi, rinnovo del contratto pubblico impiego 1 miliardo e 9, terremoto e interventi di riqualificazione 2 miliardi, sostegno delle famiglie 600 milioni, estensione delle quattordicesime nelle pensioni e l'aumento della no tax area da quantificare ancora. Il taglio IRES dal 27,5% al 24% operativo dal 1 gennaio e sarebbe già finanziato con 3 miliardi che insomma, avanzano, diciamo così, dalla precedente legge di stabilità. Allora, ne parliamo con il doppio fronte Roma-Bruxelles, se così vogliamo dire. Da un lato su Roma c'è il commentatore da sempre in questo programma quando parliamo di legge di stabilità, legge finanziaria, legge di bilancio, e mi riferisco a Dino Pesole. Buonasera Dino. Buonasera. Anche eliminiamo la caverna di Platone, per favore, grazie. E dall'altra parte invece, in collegamento da Bruxelles, Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore sui temi europei. Buonasera Adriana. Buonasera. Oh. Allora, il ministro Padoan sui rapporti con Bruxelles, l'Unione Europea valuterà i numeri, siamo in regola, il rapporto è molto positivo e continuo. Vorrei ribadire una volta di più, lo dico sempre ma ci tengo, il rapporto con la Commissione Europea è molto positivo. I numeri andranno valutati, a nostro avviso siamo in regola perché un deficit del 2,3, che è un deficit che implica un abbattimento di questa grandezza e non un aumento come spesso sento dire purtroppo, perché nel 2016 noi avremo un deficit PIL di 2,4, nel 2017 lo avremo di 2,3. Allora, vedo adesso anche una dichiarazione del presidente dell'INPS Boeri sull'Equitalia, temo effetto negativo, è pericoloso dare un segnale di lassismo. Però Adriana, insomma, per ora siamo alle fonti, ma qual è la preoccupazione di Bruxelles, dandogli un titolo, cioè che i nostri numeri siano, non dico ballerini, ma siano dei wishful thinking, dei desiderata, dei desideri, ma tutti da verificare? In parte c'è quella, come sempre, ma quello vale un po' per tutte le manovre, di turno quantum, eccetera, che vanno in qualche modo depurate o comunque valutate. Ma il motivo principale è che l'Italia indubbiamente è stata la grande beneficiaria europea delle regole sulla flessibilità, e già l'anno scorso è stata trattata generosamente. Quest'anno si sperava che l'Italia in qualche modo, come dire, cercasse di, non dico fare una politica rigorista, ma comunque un po' meno flessibile. Invece nella realtà le richieste di flessibilità, per una ragione o per l'altra, continuano a moltiplicarsi. Questo a fronte del fatto che, secondo appunto i giudici europei, si fa poco sul deficit strutturale, che con le riforme è quello più importante, e niente sul debito. Quindi tutto questo messo insieme fa sì che ci sia più di una perplessità a concedere all'Italia tutto quello che chiede, proprio perché naturalmente in Europa, come è noto, ci sono i due partiti, quello del nord sempre rigorista, non dimentichiamoci che ci sono le elezioni in Germania, e quindi naturalmente Schäuble e compagni tendono a essere ancora più attenti del solito, e poi c'è la Commissione che sicuramente agisce con estremo realismo e il partito sudista che invece vorrebbe un po' più di respiro per la crescita, per gli investimenti, eccetera. È un gioco di equilibrismi, è chiaro che la Commissione non ci metterà in croce, però forse avrà difficoltà ad accettare tutto quello che noi chiediamo, per cui le voci sono quelle di richieste di sforzi aggiuntivi, di qualche rettifica. Insomma, una volta che comunque il giudizio sarà stato fatto nei dettagli, poi si potrà arrivare al dunque. Però ecco, il motivo è questo. Naturalmente il ministro Padoan ha perfettamente fa il suo gioco quando dice: ma insomma, noi il deficit lo riduciamo. Sì, certo che lo riduciamo, ma avremmo dovuto ridurlo all'1,8 e invece passiamo dal 2,4 al 2,3. Sono un po' queste le domande che si fanno a Bruxelles, pur tenendo conto che la congiuntura è quella che è, che gli investimenti in Europa sono carenti, che bisogna far ripartire tutta la macchina europea e che l'Italia che non cresce è fonte di instabilità nell'euro, e quindi anche questo è un dato di cui tener conto. Il debito diventa insostenibile, tantomeno c'è crescita. Quindi è una partita complicata un po' per tutti, ecco. Trovare il giusto punto di equilibrio è un po' l'esercizio in corso, che non è facile per le complicazioni politiche solite che ci sono in questi casi. Allora, Dino Pesole, dopo il traffico, vorrei che... europee, non italiane. No, certo Adriana. Dino Pesole, dopo il traffico vorrei capire, visto che tu di manovre finanziarie quante ne hai viste? Una ventina, una trentina in questi anni? Oltre 20. Sì, oltre 20. Ecco, un tuo giudizio sulla qualità di questa manovra, e da lì poi discende anche il giudizio se dar ragione ad alcune perplessità di Bruxelles, oppure dire, vabbè, Bruxelles deve fare la faccia feroce, perché, come spiegava bene Adriana Ceretelli, ci sono tanti gli altri partner europei, le elezioni in Germania, i paesi del nord e così via, però alla fine, se non si voleva fare una manovra di austerity e depressiva, questa è la manovra che dovevamo portare. Dopo il traffico, la risposta. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. :18:24. Allora, Dino Pesole, giudizio sulla qualità di questa manovra e diciamo, tendi a dare ragione a Bruxelles su alcune cose, una tantum più aleatoria, oppure se non si voleva fare una manovra recessiva e quindi tutta giocata sull'austerity, questa era la manovra che dovevamo portare e facciamo bene a difenderla, anche se, come diceva Adriana Ceretelli, il deficit dal 2,4 scende solo al 2,3%? Sì, allora le due questioni sono connesse. Da un lato è del tutto evidente che il governo con questa manovra da 27 miliardi, quindi un importo consistente, prova a forzare sul fronte della crescita, portandola da uno 0,6, che sarebbe il tendenziale che si otterrebbe senza fare nulla, all'1%, quindi una spinta dello 0,4. E lo fa obiettivamente con delle misure condivisibili, secondo me, che sono il mantenimento di quanto già previsto, come tu ricordavi, per quel che riguarda l'IRES, quindi l'aliquota che scende al 24%. Ci sono norme importanti per le imprese, ad esempio questa nuova tassazione piatta, la flat tax per le piccole e medie imprese al 24%, superammortamenti, iperammortamenti, eccetera. Una spinta cioè all'aumento della produttività, e poi dall'altro si cerca di tenere in piedi un minimo anche di equità sociale, devo dire per la verità in prevalenza diretta ai pensionati. Lo stanziamento è di circa 7 miliardi in 3 anni. I punti deboli di questa manovra riguardano come sempre l'aspetto fondamentale delle coperture, e lì siamo in un terreno. Oltre alla questione del deficit, che poi se avremo tempo spiegherò un po' meglio rispetto al contenzioso in atto con Bruxelles, riguarda il fatto che comunque questo governo prevede sostanzialmente entrate una tantum, che teoricamente sono ammesse ma non molto apprezzate dalla Commissione europea, e sto parlando del rientro bis dei capitali esportati. C'è una parte di una tantum che è collegata alla cosiddetta rottamazione delle vecchie cartelle Equitalia, e qui il gettito balla, perché inizialmente Renzi aveva detto 4 miliardi, ora scendono a 3, poi non si sa se stanno a 3,5, insomma comunque i calcoli sono ancora ballerini. C'è un'ipotesi di aumento complessivo delle entrate di oltre 8 miliardi a fronte di tagli alla spesa che non superano i 3 miliardi. Quindi insomma siamo di fronte a questo schema di coperture che poi si completa con il maggior deficit, e qua siamo al punto fondamentale, perché l'origine e la materia del contendere non è tanto, se vogliamo, se il governo scende al 2,3, al 2,4, quanto il fatto che il governo a maggio si era impegnato a ridurre quel saldo che invece a Bruxelles viene valutato a livello prioritario, è pur vero che ora si cerca di superarlo, il cosiddetto deficit strutturale, che è sostanzialmente il deficit tolte le variazioni del ciclo economico e le una tantum. Ebbene, con il documento di programmazione che è stato appena inviato a Bruxelles, il governo non solo non lo riduce nel 2017, ma lo aumenta dello 0,4. E questo obiettivamente è visto, a torto, a ragione, da Bruxelles come una violazione degli impegni. Ora, dopodiché, è chiaro che la materia poi diventa politica, perché il governo dice: ma voi ci avete lasciati soli a gestire l'emergenza migranti e io me lo faccio in deficit. E chiaramente questo va in deficit. E Bruxelles ti obietta invece: sì, però questo è strutturale, non è una tantum. Adriana, in una battuta, perché sono nel finale, facciamo una previsione. Al di là, diciamo, dei battibecchi, delle scaramucce, alla fine, secondo te, cosa succederà? Cioè, passerà la manovra con qualche ritocco per dar ragione, diciamo, più di forma che di sostanza a Bruxelles? Secondo me passerà la manovra con qualche ritocco, bisognerà vedere quanto sarà da ritoccare. Sicuramente passerà la manovra, ma non esattamente così. Non esattamente così. E su questo inizierà la simpatica, diciamo, cronaca quotidiana di cui vi faremo parte e su cui vi terremo aggiornati, delle richieste di Bruxelles e le modifiche che farà l'Italia. Grazie per ora, visto che stiamo parlando di qualcosa in divenire, a Dino Pesole e Adriana Ceretelli. È veramente tutto per questa puntata